Siamo in Zambesia dove lavoriamo con Manitese per progetti di sviluppo rurale e in particolare stiamo implementando delle tecniche agroforestali per migliorare la sicurezza alimentare di alcune comunità nei distretti di Kilimane, Namakurra e Nikwadala. Diciamo che l'alluvione che ha colpito, diciamo, tutta la Zambesia, il ciclone che si è abbattuto su Sofala, hanno chiaramente condizionato molto le attività sia del nostro progetto che in realtà le condizioni di vita della gente nelle comunità, in particolare quelle comunità di Nikwadala e Namakurra, ma anche di Morombala, un po' più a sud della provincia, dove ci sono state varie sondazioni dei principali fiumi, dal Likungu al fiume Liquar, lo stesso fiume Rio Zambesi, che hanno provocato migliaia di sfollati e chiaramente distrutto abitazioni e compromesso in maniera definitiva la campagna agricola, che è quella, diciamo, più importante per il paese, che è la campagna che va da novembre e termina a marzo. E con drastiche chiaramente conseguenze su quella che sarà la sicurezza alimentare del paese nei prossimi mesi. Voi in questo momento state anche collaborando, diciamo, con il governo, con la direzione provinciale dell'agricoltura, quindi ti chiederei anche come sta andando e a che conclusioni state arrivando, insomma, che cosa serve. Sì, in questo momento stiamo lavorando a stretto contatto con la direzione provinciale dell'agricoltura, con cui appunto ci confrontiamo quotidianamente sulle problematiche riguardanti appunto il settore. E i problemi sono svariati perché gli aiuti alimentari in questo momento stanno arrivando in seguito all'emergenza dichiarata, allo stato di emergenza dichiarato da Nyusi, il presidente della Repubblica Mozambicana. Di fatto, però, quello che manca sono tutte la parte di acquisto di semi, materiale agricolo come zappe che sono andati chiaramente persi durante l'alluvione. Una buona parte dei campi già può essere pronta per essere messa a coltura nella seconda epoca, che è la seconda campagna agricola che inizia ad aprile e termina a giugno. È un'epoca in cui già le piogge diminuiscono in maniera drastica e che apre la stagione secca, che invece va da luglio fino a novembre, dove non piove assolutamente se non con piogge sporadiche e inconsistenti, diciamo, a fini agricoli. Quindi quello che stiamo cercando di fare con la direzione provinciale è di quantificare un po' le varietà di semi adeguate per questo tipo di epoca, con l'obiettivo di ridurre le conseguenze, sarebbero eventualmente disastrose, di trovarsi senza mais, senza sesamo, senza ortaggi, uno dei problemi a cui il Mozambico è già andato incontro nell'alluvione del 2015, con gravissimi problemi di malnutrizione e fame all'interno delle comunità, in particolare quelle più isolate che sono presenti appunto nel territorio. Ecco, allora ti chiederei anche di dirci, diciamo, quali sono, in che modo si può aiutare, ecco, da qui in che modo si può aiutare se si vuole. Sì, allora, come Manitese abbiamo lanciato oggi un appello, per cui andando sulla pagina Facebook di Manitese ONG Onlus o sul sito web di Manitese si trovano tutti i collegamenti e le informazioni necessarie per contribuire per acquisto appunto di semi e altri strumenti per far ripartire la campagna agricola. Perfetto, ti faccio solo un'ultima domanda, che è se per caso sei in contatto anche con altre persone, magari in altre zone del Mozambico, se hai un'idea, un quadro di come stia andando ora la situazione un po' in tutto il paese. Allora, diciamo che la situazione è abbastanza, si sta un po', diciamo, normalizzando. Nel sud del paese non è stato attaccato da piogge, il nord del paese invece soffre siccità. Questo è dimostrazione che i cambiamenti climatici sono effettivamente un danno enorme, specialmente nei paesi tropicali e del sud del mondo, dove non ci sono chiaramente tutte le risorse necessarie per poter stare questo tipo di fenomeni. E invece in questa zona qui, nella zona centrale, dove appunto Zambesi e Sofala, le condizioni sono veramente preoccupanti. Molte comunità sono ancora oggi isolate, in particolare dove noi lavoriamo stiamo provando ad accedere in due comunità, ma è praticamente impossibile, i livelli dei fiumi sono altissimi, non si passa né con canoe, chiaramente non con le strade. Le strade molte sono totalmente non agibili perché la quantità di fango presente non permette ai mezzi di poter accedere alle comunità, per cui a Sofala, dove poi si è subito maggior danni a causa del ciclone, molti ponti sono anche crollati, per cui la città di Beira è distrutta per oltre il 90%. Abbiamo appunto amici che lavorano anche lì e che stanno appunto gestendo la situazione da lontano. L'elettricità non è stata ancora ripristinata in questi giorni. Cioè, stamattina proprio alcune le reti telefoniche hanno ridato accesso, hanno ripristinato la linea in quelle zone. Quindi anche noi qui in Zambesi siamo stati senza internet con energia contata proprio per sopperire, cioè proprio per dei danni strutturali che chiaramente si sono susseguiti alla conseguenza del ciclone e dell'alluvione.